Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 22 e 16 minuti, chiuso l'appuntamento con il volley che non ci ha portato via più di tanto tempo. Caro Maurizio, iniziamo Rock Wave Live del mercoledì sera, l'appuntamento quello tradizionale nel corso della settimana rock di Blu Radio Veneto dopo le 10 di sera. Maurizio. Sì, grazie Sergio, buonasera anche ai nostri ascoltatori. Sì, stasera avremo una nutrita rappresentanza della banda di Alessandro Duca. È tanto tempo che noi ed Alessandro ci sentiamo per venire a suonare. Un anno, vero Alessandro? Un anno. Finalmente siamo riusciti a catturarlo, posso dirti così? Ti abbiamo catturato. Ha provato. Ti abbiamo catturato e finalmente sei qua per presentare questa idea molto interessante di riprendere un disco di un certo tempo fa, un disco importante, fondamentale per la tua discografia. Hai voluto fortissimamente una ristampa, ma non le solite ristampe che si fanno, una ristampa ex novo. Hai contagiato un po' tutto, non hai leggermente modificato il sound di quel tempo per metterlo nel 2012, Edition 2012 di Brumanti, che è il disco più, è brutto dire più fondamentale, non esiste in italiano, fondamentale, il centrale della tua discografia, è così Alessandro? Esatto, sì, è un disco del 2005, un disco che io ho definito fortunato perché per circostanze assolutamente fortuite sono riuscito a coinvolgere in un sol colpo... Io ho visto... il team che ha suonato all'epoca, una roba incredibile. Dove li hai scovati? È la De Baldini, allora, per dire un nome, quello che non si muove, se non si muove Guccini non si muove lui. Come mai? È nato tutto veramente da una stupidaggine, perché Paolo Filippi del Cavo Studio, sì, con cui io avevo iniziato la carriera nell'avventura di Bacco il Matto, che era una carriera molto interessante, noi di Sicua li abbiamo sentiti un sacco di volte, ti abbiamo intervistato all'epoca quando eri uno del Bacco il Matto, e lui ha uno studio e continuava a dirmi che i miei dischi non suonavano bene e dice se vuoi fare un bel disco devi venire da me. E io veramente per scherzo gli ho detto: guarda, verrò a fare un disco da te quando mi porti la sezione ritmica dell'album Concerti Live di Paolo Conte all'Olimpia. E lui mi ha chiamato il giorno dopo, mi dice: guarda, se tu mi mandi delle ipotesi di canzone, io sento i ragazzi che hanno detto che sarebbero anche interessati ad arrangiare un disco, e quindi la cosa poi è andata in porto in una settimana. Non per sminuire la tua band di assolutamente no, ma citiamo quei ragazzi. I ragazzi erano Ella De Bandini, Ares Tavolazzi e obiettivamente... Hai capito Sergio? Ares Tavolazzi e Ella De Bandini. Guccini. Guccini, Docete, buon Francesco. Conte. Ma io poi ero abbastanza... cioè non ci credevo, non ci ho creduto nemmeno fino alla ristampa, se devo essere sincero. Perché è stato un periodo abbastanza burrascoso e trovarmi in studio con i personaggi, perché poi non c'erano soltanto loro, c'erano tanti altri, Gibellino alla chitarra, c'era Tino Tracanna, c'era Fabrizio Bosso, che adesso ho visto che è in televisione, suona un po' con gli spettacoli del sabato sera. Sì, esattamente. E il disco fu arrangiato da Alessandro Galati, scelto da Ares Tavolazzi, e pianista di Firenze. È stato in due giorni l'abbiamo fatto. In due giorni, una cosa simile. Quel peso specifico simile, in due giorni, è stato bravissimo, una cosa incredibile. Diciamo che due giorni sono state le session di registrazione. Poi per gestire il cantante ci è voluto un po' di più. Presentiamo anche la tua band, che stasera fa ben sfoggio dei suoi strumenti. Allora, c'è Valerio Gaffurini, che... Ciao. Pianoforte, e poi tra l'altro adesso è il mio produttore. Benissimo, una cosa fondamentale. E poi adesso i dischi suonano meglio. Adesso i dischi suonano meglio, e lui, quando io ho parlato di bisogna gestire il cantante, lui sa cosa vuol dire. Perfetto. Poi abbiamo Matteo al basso. Matteo Cosso al basso, che è il nostro guru, è l'elemento d'ordine. E poi c'è il manager là. Poi c'è il manager. È lui che caccia i soldi. Infatti siamo disperati, neanche il Gratta e Vinci siamo riusciti a fare in autostrada. Però va bene. Ci sono il produttore artistico, la musa ispiratrice. La musa, poi c'è il produttore artistico Cromo. Che ecco qua, sì. Adesso si sta riposando. È lui che decide il sound, eccetera. Fino adesso, quindi... E poi la pepita che scrive i testi. È perfetto. Esatto. Benissimo. Questa è la band di adesso, però io vorrei fare un piccolo salto indietro. Hai cominciato quando? Quando hai voluto fare veramente il cantautore borderline? Cioè un po' all'infuori delle solite cose, vero Alessandro? Sì, ho iniziato a Padova. È iniziato a Padova, visto che qua sei venuto a fare gli studi. Ho iniziato a Padova perché vivevo con Davide Koslovic da Trieste, che lui suonava chitarra, era ovviamente appassionato di canzoni, di cantautori italiani, e io già ero non così dentro nell'argomento, e lui mi ha insegnato di andare. Ci sono state due sorelle che ti hanno spinto prima? No, le mie sorelle mi vogliono spingere nel fosso. Anche Like a Virgin di Madonna hai preso all'epoca. Like a Virgin l'ho preso per salvarmi dalle sorelle. Ah, ecco, per quello. Poi dopo la raccontiamo quella delle sorelle, sì, c'è un brano proprio dedicato a loro e a tutto che quello ti stanno ascoltando stasera le sorelle. Bah, credo che l'ultima volta che abbiano acceso la radio, che hanno acceso la radio, sia nel 79. Ah, perfetto. L'83, quando hanno fatto Sarà perché ti amo a Sanremo. Ma è finito. Lì hanno smesso. Allora, dimmi. No, dicevo, ho iniziato qui a Padova a suonare De André, De Gregori, quelle cose lì, e poi dopo a scrivere delle canzoni che erano la bruttissima copia. Sì, hai detto una cosa bellissima, hai detto una, cioè, erano canzoni pessime, bruttissima pessime, copia. Era hai la detto. Bruttissima copia di De Gregori quando volevo fare uscire dal conosciuto, fingevo di scrivere i testi degli U2 in italiano, che erano una schifezza ineguagliabile. Ho ancora i documenti. Sto cercando di recuperare tutti i documenti, tutte le cassette che ho dato in giro per evitare che la gente mi sputtani. Ah, ho capito. Dovete sapere, cari ascoltatori, che Alessandro è una fucina di idee, ha un sacco di progetti che lo coinvolgono con nomi diversi, un sacco di cose fai, veramente sei. Non ti fermi mai, è così? Secondo me sì. Sì, però... Dal Bacco e Matto in su, dai. Perché ho bruciato Bacco il cervello, ecco, adesso che mi si è ridotto come il purè, per cui credo che nei prossimi anni sarà un po' più difficile. Perché possiamo dire, Bacco e Matto era un bel progetto, dai. A me sì, piaceva Bacco molto. Bacco e Matto sì, era un gran bel progetto, era un progetto rock, figlio proprio... Rock folk, possiamo sì, dire. Sì, della scuola Neil Young, Crazy Horse... C'era un chitarrista che diciamo era la metà artistica della band, Nicola Bonetti, che adesso vive in Veneto, vive a Pordenone. E era un bel progetto. Chip Taylor una volta ci ha regalato anche una canzone. Esatto, mica uno qualsiasi, un nome molto importante. È stata anche quella una sorpresa impressionante, perché ci ha mandato un DAT scrivendo che quando era rimasto a Bologna per un periodo aveva ascoltato il nostro primo disco, gli eravamo piaciuti un casino, vi regalo questa canzone, una canzone che ho dedicato a una ragazza italiana, e per noi è stato un grande onore. Incredibile, sì. Certamente. Arriviamo adesso, questa sera parliamo un momento di questo progetto 2012. All'epoca si scriveva di questo disco. Oggi c'è questo disco, autentica canzone d'autore in un autentico jazz. Sì, perché c'è il jazz in questo disco, c'è il jazz sotto diverse spoglie che tu introduci, che inserisci con una certa classe, secondo me. Ma l'idea che aveva Paolo Filippi in quel periodo era proprio di costruire un disco che suonasse molto jazz, però con un elemento di disturbo. In teoria dovevo essere sei io. Te l'elemento di disturbo. Quindi credo che l'obiettivo sia stato centrato quantomeno per il disturbo, sicuramente. Per cui anche lì avevamo fatto proprio un'impostazione molto jazzata del decisamente jazzata, sì. Adesso facciamo una cosa di questo genere, iniziamo a presentare un pezzo dall'edizione 2012 di Brumantica, e poi spieghi che cosa vuol dire, che è una scienza molto interessante, Brumantica. Lo spieghi? Visto lo che hai visto che ho studiato. Esattamente, l'hai studiato a Padova, lo spieghi. La prima traccia del disco che abbiamo scelto, ti ricordi il titolo? Nebbia e sabbia, che credo che descriva la Brumantica nella maniera più efficace, almeno dal mio punto di vista, poi non si capisce niente di quello che dice. Ok, che se non sbaglio la traccia 8 la andiamo subito a sentire. No, è la traccia 6, è la 6 Cossu. Ha scritto lui sbagliato. Ho sbagliato io allora. È la 6, credo. Ho sbagliato io. Vabbè, comunque sia la 6 che la 8 le dobbiamo mettere. Beh, questo sì. Cominciamo dalla 6. Beh, prova con la 6. Rock Wave. L'onda del rock. Thank you. La nebbia mi oscura la parte migliore del cranio. La sabbia disturba le mosse di questo ingranaggio. La nebbia si prende la parte più buona del mio mappamondo. La sabbia mi ostacola nei movimenti il pensiero. Barman, sono l'ultimo. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Quasi sussurrata, Maurizio. Esattamente, un finale quasi sussurrato. Ma tutta. Sì, c'è un po' di swing sto pezzo, cosa dice Alessandro? Sì. Era poi, tra l'altro, era quello il motivo principale della necessità di riproporre Brumantica, perché poi in studio Tu avevi detto che furono scelte le take di voce più interpretate, esattamente, perché qualche volta gli strumenti coprivano la voce, non era stato soddisfatto, però sacrificando il ritmo, per cui adesso che Valerio può testimoniare che sono un mago del ritmo. Assolutamente, ecco, sì, testimoniato. Lasciamo perdere l'interpretazione, lo swing ha bisogno di swing. Assolutamente, sì, sì, adesso sei diventato proprio un mago. Tempista. Il tempista. Il tempista. Sono e dal vivo come lo fai sto pezzo? Come nel disco nuovo? Dal vivo è molto più vicino alla versione originale. Qui è un brano molto intimista comunque, però è più guascone. Ho capito, ma perché, come mai nella versione originale, tu hai detto giustamente, i suoni, l'orchestra, cioè le sonorità comprimevano la voce, che motivo c'è? No, era proprio a mio avviso uno standard dell'epoca, dei messaggi di quel periodo, e in più ecco, Valerio diciamo, dice, sì, conferma, sì, sì. Sì, probabilmente il problema più grosso era, secondo me, il fatto che non dessero importanza alla sua personalità, quindi perdeva molto la sua voce. Personalità a scapito degli strumenti, gli strumenti sovrastavano molto il suo timbro di voce, che poi è la sua forza, certo, e il suo modo di cantare. Quindi, cambiando poi produzione, secondo me è migliorata molto. Sia lui che è maturato comunque, certo, nel tempo, cioè lasciando stare comunque le cose. Sono caduto dall'albero, dal tanto che sono maturato. No, è maturato proprio vocalmente, quindi comunque si è data più importanza a tutto quello che è lui come personaggio, la sua voce, quindi la voce in primo piano e in secondo piano la musica, che diventa comunque un accompagnamento alla voce. Esatto, era ragione. Anche difficile in quel periodo mettere in secondo piano Tavolazzi e Gibellini, certo. Era una scelta coraggiosa, forse non sì, no, ancora. Beh, chiaro, quello anche, no, però sì, però sicuramente. Sì, sì, hai spiegato il concetto giustamente. Esatto, e questo secondo me è la cosa principale delle produzioni che poi abbiamo cominciato a fare insieme, che ormai abbiamo dato molta più importanza a lui. Giusto, che è lui, giusto. È quello bravo, quello che va a tempo, quello che intonato, ecco, grazie Valerio, grazie, dopo birra. Okay. Valerio, tranquillo, pago io stasera. Quindi praticamente sì, la voce è il perno, il centro di questo disco, e qua giustamente qualcuno ha citato Tom Waits, qualcuno ha citato Caposella, ma al di là di Tom Waits e Caposella, è l'andamento, il progetto di voce che tu usi in questa maniera, quello è importante, al di là dei personaggi che abbiamo citato. Guarda, io non, sinceramente ho studiato un po'. Valerio, può parla dire anche Matteo. Valerio può dire che ho studiato tantissimo, ma mentirebbe. Sì. No, è vero. Un po' la voce, un po' ho studiato, però obiettivamente adesso mi piace. Si costruisce da sola, liberarti di certe cose, sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Guarda, si va proprio a ruota libera anche i brani, nonostante siano comunque arrangiati più o meno nello stesso modo da un bel po' di tempo a questa parte, dal vivo sono sempre molto diversi, anche perché le presentazioni dei brani poi vengono cambiano, improvvisate, e quindi a seconda del momento mi viene in un modo o nell'altro, magari più interpretata, magari un po' meno, poi dipende sempre da quanto hai fumato e quanto hai bevuto la sera prima. Questo è vero, fondamentalmente. Quindi Tom Waits insegna queste cose. Adesso un po' meno, è cambiato adesso Tom Waits. Ma guarda, io Tom molto... Waits ho smesso di ascoltarlo quando come ho scoperto che le canzoni gliele scrive praticamente da Rain Dogs in avanti tutte la moglie. Ah, e io la trovo insopportabile sta cosa. Ah, quindi proprio secondo insopportabile. Te insopportabile, cioè, dimmi, lì, a te le scrive il cane. È vero, trovo insopportabile questo. No, non perché sì, c'è un filo di misoginia in questo, però ecco, sai, Tom Waits è sempre associato ai veri borderline. Sì, borderline, assolutamente. Ecco, e non so, conosci sicuramente Chucky Vice, che quello è completamente fuori davvero. Certo. E pensare che quei racconti lì che parlano di questi personaggi della campagna più dispersa dell'America, che siano scritti da questa qui che sta al Greenwich Village, così mi suona un po' è una natura le cose, natura le cose. Invece Chucky Vice, che ho riscoperto anche perché ha fatto il secondo disco dopo 20 anni, compagno di merende delle origini di Tom Waits, mi diverte veramente molto, cioè, lì trovo molta più sincerità. Dopo adesso ho detto una cazzata a dire che Tom Waits ha fatto dei brutti dischi, no, ha fatto dei grandi dischi. New Variation credo sia uno dei dischi bellissimo, più belli mai realizzati. Poi è andato in classifica anche in Italia, quindi è stato al di là, cioè, guarda, calcola che io di New Variation sono andato a Firenze a sentirlo, sentirlo in teatro, è uno dei dischi più belli che siano mai stati realizzati. Però c'è questa cosa qui che un po' mi ha allontanato. Allontanato, leggermente allontanato. Non ci siamo allontanati però da Matteo, che Matteo adesso dovrà suonare il basso. Matteo, come la senti il modo di interpretare questo nuovo disco, questa riedizione, questa idea di riedizione che ha fatto, diciamo, Alessandro? Che, secondo il mio modo di vedere, perché sempre, è molto coraggioso, sempre al di là della parte, io penso che un album come Brumantica sia un album che tutti gli amanti di musica debbano avere, perché secondo me è un album molto introspettivo e poi è veramente suonato e interpretato, soprattutto adesso che è stato, dove risalta molto la voce di Alessandro, sì. è secondo me una cosa eccezionale, ecco, per come la vedo io. Quindi portare in giro questo disco per me è un onore, perché lo reputo un disco fondamentale anche per me, quindi io lo suono da quest'anno, quindi per me posso solo dire questo: io sono sempre al di là di ogni parte, quindi se devo dire qualcosa che non va lo dico senza problemi. Quindi ti bastano le birre che devo valere io. Passo stasera. Passami stasera, un po' di mirto. Stasera vi costerà una cifra. Ah, il microfono era acceso. Esatto. Ok, cominciamo a suonare che cosa, ragazzi, adesso? Suoniamo un brano padovano, un brano scritto al Porteo. Al Porteo, qui vicino. Al Porteo. Suoniamo Ho trovato l'oro, che è un brano di Bacco e Matto, di quel periodo, quindi Bacco e il Matto, è stato scritto... spero sotto l'ala protettrice di Piero Ciampi, poi magari non ci sia riusciti. È un brano dedicato a Piero Ciampi. Perfetto. E quindi lo suoniamo, poi okay. Vado? Andiamo. Vuoi spiegare due cose ancora? No. Va bene. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ascolti anch'io. Sì, adesso mettiamo a posto le cose. Adesso mettiamo a posto le cose. E come mai? Cioè, abbiamo parlato di Piero Ciampi. Questo era un pezzo dedicato a Piero Ciampi. All'epoca, quando è arrivato il disco qui in radio. Sì, siamo in diretta. Quando è arrivato il disco in radio, abbiamo messo immediatamente questo pezzo che è piaciuto molto. E anche perché era interessante, era ben fatto, era una novità all'epoca. A proposito di questo, ringraziamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che stasera abbia voluto qua fortissimamente dopo un anno di avvicinamento. Di grazie Alberto. Ecco, cosa vuol dire Piero Ciampi nella tua formazione musicale, Alessandro? Guarda, nella frase "il vino contro il petrolio", che già allora mi sembrava Questo era proprio, quello era proprio un borderline italiano, per veramente... è sempre stato assolutamente fuori da tutte le mischie. Mi piace il suo approccio tragico, sempre tragico, però sempre molto divertito, anche quando deve raccontare delle cose abbastanza pesanti, lasciando perdere la Dius, il colossale Dius. Certo. Però ecco, mi ricordo che con la frase il vino contro il petrolio, perché era una frase che ripetevamo spesso quando studiavo scienze forestali, perché oltre allo studio e alle cose aggiungevamo anche, andavamo a Teano a prendere il Cabernet, mi sembra, o a Teolo, adesso a Teolo, non mi ricordo. A Teano, non a Teolo, a Teolo. A Teolo andavamo a prendere Teolo. Il Cabernet. A Teolo. Teolo. A Teolo. Teolo. Teolo, sì. E quindi c'era questa cosa e Piero Ciampi proprio mi aveva appassionato molto. Poi tutti sul Pordoi. Certo, certo. Sì, Piero Ciampi è un musicista che ha sempre avuto difficoltà ad essere compreso, ad essere scoperto. Ci sono stati, per esempio, dobbiamo sempre ringraziare Nada, che Nada ha dato un grosso impulso alla riscoperta di Piero Ciampi. Eh sì, anche perché lui, diciamo, era molto legato in molti sensi. Sì, esattamente. Poi no. Era difficile da gestire. No, era comunque già apprezzato ai tempi. Io poi ho conosciuto gente che ha lavorato con lui, era diventato difficile, se non impossibile da gestire per colpa del vino. Sì, certo, certo, esattamente. E quello poi probabilmente ha segnato anche il fatto che si allontanavano un po' tutti da lui. Esattamente, non lo volevano praticamente. Non lo volevano, mi hanno raccontato gli episodi tristissimi proprio degli ultimi giorni suoi, che viveva in questo garage, che aveva questa rampa dove prima di accedere alla basculante bisognava scendere questa rampa, e molte volte lui rotolava giù e sbatteva contro sta... E detto questo, rimane comunque uno dei grandi fari. Esattamente, e giustamente uno dei fari della musica italiana. Del alla canto... facciaccia di quelli che guidano a fari spenti nella notte. Non sei battistiano? No, più che Battisti trovo abbastanza difficile la figura di Mogol. Questa che non ho mai capito se è il cognome, il nome o un nome d'arte. Cosa dici, Sasso? Guido Rapetti mi pare che sia. Sì, esattamente. Non ho mai identificato. Piaceva molto alle mie sorelle. A proposito delle tue sorelle, sentivano, tu mi ricordo spento, hai raccontato che nel repertorio c'è un pezzo di Sandro Giacobbe, adesso è vero? Di, è una di Claudio Baglioni. Ah, di Claudio Baglioni, anche quel Sandro Giacobbe avete fatto. Stiamo preparando, sarà la nostalgia. Sarà la nostalgia. Ho avuto questa terrificante infanzia che non augurerei a nessuno di... due sorelle maggiori con una radio sola in casa, è stato terribile. Ho dormito per alcuni anni sotto il poster di Christian. Ma sai che infatti io mi ricordo di aver fatto regia qualche tempo fa ad un gruppo che diceva la stessa cosa, forse eravate voi. Io mi ricordo sta cosa. Siete già stati qua? Sì. No, qua non siamo stati. Allora no. Allora c'è cioè qualche disgrazia comune. Sì, sì. Dice la stessa cosa della sorella o le sorelle, no, con ecco, una sola radio. È stato veramente terribile, perché poi io era il periodo che cominciava ad andare di moda l'hard rock, per cui i miei amici già ascoltavano roba tosta, i Motorhead, mi ricordo, mi pigliavano tutti per il culo per la storia di Sandro Giacobbe. È stato terribile, perché conoscevo a memoria tutte le canzoni di Baglioni fino alla vita adesso, tutte, le ricordo ancora anche adesso. Quando viaggiamo, le cantiamo. Sì. Ovviamente le mie sorelle voglio molto bene, però ecco, francamente, se dovessero rovinare l'infanzia, io sono un pezzo di un cabarettista, ma sono scene vere. Benissimo. Allora, adesso spieghiamo il titolo di Brumantica, che devi ancora spiegare, Alessandro. Guarda, è un neologismo. Io abito a 20 metri dal fiume Oglio. E la bruma è sempre la stato, nebbia sarebbe. La nebbia è la condensa che si forma ai margini del fiume, e ha tutto il suo fascino, eccetera, eccetera, ed è un periodo che ce n'è poca, anche perché lì veramente hanno costruito di tutto, Valle Camonica è devastata da questo... Edilizia selvaggia. Dallo sviluppo, perché poi lo chiamano così. E quindi volevo fare questa cosa qui di questo personaggio che si inventava questa scienza che studia la nebbia del fiume e cerca di capire come mai è scomparsa. È nata questa pippa della Brumantica, che poi è diventato un disco intero. E niente, questo era. Poi, avendo studiato scienze forestali, sono tutti aspetti che, insomma, che fanno parte della tua cultura. Deformazione professionale. No, formazione, non deformazione. Diciamo formazione. Formazione. Una cosa, però, questo è l'inizio di un progetto che continua nel disco dell'anno scorso che tu hai fatto. Allora, avevo in mente questa trilogia legata, esatto, al territorio, che doveva iniziare con un disco che parlasse proprio del territorio, che, certo, era Brumantica, quindi esattamente a tutti gli aspetti. Poi volevo fare un disco botanico, e Artemisia Absinthium. Esattamente, con un titolo impossibile ma molto interessante. E poi un disco zoologico che era Piccoli Animaletti, che è uscito l'anno scorso. Questa trilogia folle. E basta, mi sono fermato lì. Adesso stiamo finendo Sandro Piteco. Che sì, è un altro tuo progetto. Si ritorna alle origini. Bisogna sottolineare una cosa: che quasi penso tutti quanti i tuoi progetti sono autoprodotti, o no? Eh sì, assolutamente. Paga Valerio, con Valerio. Quindi assolutamente autoproduzione. Vuol dire tanta libertà e vuol dire anche tanto peso. Cosa dici? Guarda, all'inizio, anche perché io non ho mai creduto a chi si professa indipendente, perché nel ventennio. Neanche gli indie adesso sono indipendenti. Ecco, nel ventennio in cui ho condiviso palchi, festivalini, eccetera, eccetera, tutti indipendenti, poi alla prima occasione. E io stesso, se mi avessero offerto un contratto, non avrei certo rifiutato. Certo. Però, se devo essere sincero, arrivato a questo punto, dopo 22 dischi, non mi interessa proprio per nulla. Anche perché ormai fare un disco non costa più quello che costava le cifre prima, di una volta. Soprattutto se paga Valerio. Certo, ribadiamo questo. Grazie, ribadiamo questo. È divertente, secondo me, anche mantenere questa linea proprio di assoluta indipendenza, ma non perché mi sento in gabbia o meno, no, perché no, trovo assolutamente naturale essere così proprio. Ma anche la confezione di Brumantica edizione 2012 è fatta molto bene. Ma la confezione, io adesso non sono assolutamente contro la pirateria musicale, anzi secondo me è legittima difesa. Ecco. Però io non riesco, ho anch'io come tutti i dischi esterni attaccati al computer con dentro discografie complete, non li ascolto mai. Perché un approccio fisico, per esatto, me. l'approccio fisico. Perché se un disco, un CD, parliamo del CD, è fatto bene, è l'approccio fisico che conta. È quello il discorso. E quindi questo aspetto l'ho curato sempre nel mio piccolo con molta intensità. Perché secondo me è proprio una questione fisica. Poi dopo, se uno mi dice posso scaricare, piratare il tuo disco, allora, nel mio sito sono tutti download senza nessun problema. Però ecco, veramente io non riesco anche perché obiettivamente adesso i dischi non costano più quello che costavano prima, quindi se hai un po' di pazienza il disco di Tom Waits di 2 anni fa lo trovi anche a cifre abbordabili per i nostri stipendi. Esattamente, ecco. Sì, questo è vero, hai detto e una poi, cosa giustissima. Ecco, a me piace veramente andare a rosicchiare all'interno del disco, vedere che ha suonato il basso, quello che aveva suonato nel disco di quell'altro, eccetera eccetera, e vedere anche le fotografie, esatto, queste cose qui, insomma. Cioè, la riedizione 2012 è fatta molto bene, proprio fatta con cura, si vede. Cioè, è fatta perché uno deve avere, proprio come tu giustamente hai detto, in mano il CD. O come una volta si usava avere in mano l'LP, che adesso è ritornato, ma chiaramente da nicchia. È bello e anche è positivo, secondo me, al di là dello scaricamento. Insomma. Esatto. Io la vedo così. Sentiamo un altro pezzo da Brumantica. Abbiamo scelto, che traccia abbiamo scelto, Sergio? Adesso stavolta l'8 forse? Stavolta... Aspetta che non mi sento più, questa ancora volta più è l'otto. Sì, sì, sì, ancora sì, più sussurrata. Andiamo a sentire. Ok. Rockwave, l'onda del rock. Disegno e l'incanto, mille nuvole a passo di vento. mentre tu, Maddaluna, sei la luce di questi occhi. Mentre tu, Maddaluna, sorridi con un bacio, mi lasci e vai via. Stringi ancora un altro momento, un istante può durare abbastanza. La mia nave non conosce la legge dei mari, la deriva che arriva è cattiva. Segnami con la tua innocenza sicura, sei pulita come l'acqua degli occhi. Insegnami la strada più corta e la luce, sono cose che dovremo imparare. Mentre tu, Maddaluna, sei la luce di questi occhi. Mentre tu, Maddaluna, sorridi con un bacio, mi lasci e vai via. Mentre tu, Maddaluna, sei la luce di questi occhi. Mentre tu, dolce spina mia, sorridi con un bacio, mi lasci e vai via. Di questi occhi, mentre tu, dolce spina mia, sorridi con un bacio, mi lasci e vai via. Mentre tu, Maddaluna, sei la luce di questi occhi, mentre tu, dolce spina mia, sorridi con un bacio. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito un pezzo. Eccoci. Molto molto interessante questo andamento. Elade ha voluto così, vero? Sì, sì, ha proprio detto facciamo questa e ha voluto proprio utilizzare le figure ritmiche che aveva usato in Ho visto Nina volare. Mm-hmm. Quindi ha suonato con le mani, non nemmeno con le spazzole o con le fruste, ha suonato proprio. È stato un momento importante questo. Anche dal punto di vista emozionale, o no? Cosa dici? Eh sì, quel pomeriggio lì, quando poi la canzone è finita e ella aveva, si vedeva che aveva legato molto con De André. Si vedeva che c'era qualcosa che girava nell'aria. Fantastico, è stato fantastico, del resto anch'io, nel senso che comunque... Ti eri emozionato anche te? Sì, abbastanza. Abbastanza. E l'inserimento della voce, appena sussurrato, come giustamente aveva parlato anche il primo Sergio, un sussurro appena, così. Era anche un brano, insomma, che dal punto di vista lirico si presta molto a questa... Questo giro, questa sorta di deriva, di risacca in cui la luna è una figura che non si capisce bene, che si riflette sul mare o se è da qualche altra parte. Questo era il senso, poi dopo... Va bene Valerio, vado su giù. Va bene. Valerio acconsente, quindi... Valerio è l'altro elemento di equilibrio. Che, no? che, sì. Che forza ti ha dato Valerio per continuare a produrre i dischi, eccetera? No, Valerio è il paracarro. Tu vai, paracarro. Tu stai andando nel fosso e lui ti distrugge la macchina, ma ti salva la vita. Ok. Questa è la figura di Valerio. Funziona come... Ci siamo, no? Ma sì, potrebbe essere. Sì, sì, so che paracarro pensi tu. Ma musicalmente dove lo fermi, Valerio? Musicalmente dove? Dove lo stoppi, se lui vuole. Ma guarda... Abbiamo avuto anche parecchi scontri, perché poi vabbè, a volte è difficile quando si lavora insieme, ci sono dei momenti in cui si litiga, però solitamente abbiamo un buon feeling, quindi lavoriamo abbastanza insieme quando facciamo gli arrangiamenti. Quando vuol cantare lascio che faccia lui, io non gli dico fai così, fai cosà, non dico niente. Dopodiché gli dico no, questa ricantiamola, perché è un po' magari ok, però comunque lascio totalmente la libertà di interpretare come lui, d'altra parte lui quello scrive. Quando scrive un pezzo e ti presenta questo, io lo vorrei far così, cosa ne pensi? A volte dico sì, altre volte dico no, secondo me non ci siamo. Non ci siamo, se devo suonare io la chitarra dice no. No, cioè, nel senso che poi i pezzi, va bene, nascono lì, noi stiamo in studio, ci mettiamo lì e facciamo una prova, proviamo questo, lui dice ah no, non mi piace questo giro, è troppo commerciale, è troppo baglioni, e io gli dico no, guarda, no, questo no, facciamo più rock and roll, cioè, sono idee, certo. Scambiamo comunque idee e da lì nascono comunque bene o male tutti i brani. Quindi dopo ci sono delle cose magari più musicali che a volte lui magari ha un po' più difficoltà a capire, perché qualsiasi cosa sia particolarmente musicale, poco rock and roll per lui è al di fuori del mondo. Rock and roll salverà le nostre vite. È vero, però no, dai, diciamo che comunque collaboriamo, un ottimo feeling direi, molto molto. L'inserimento di Matteo, come è andato il discorso? Allora, Matteo per tre motivi principali. Il primo perché ovviamente è bravo. è legato al metodo che ha di suonare o di intendere anche soltanto la vita del musicista. Il secondo perché non beve. Questo è importante. Quindi, importante. Nei concerti è fondamentale, sia prima perché impedisce a me di esagerare prima del concerto, ma dopo che mi lascia carta bianca, perché ormai che hai cantato non è che devi, guida lui al ritorno. Quindi sei a posto. Un autista, va bene. E il terzo, perché apprezza un capitolone della musica che, benché io ne sia appassionato, non ho mai approfondito in maniera... Io arrivo più dal folk o italiano o comunque americano. Lui da dove deriva? Molto dal rock inglese. Dal rock inglese arrivi te. E quindi serviva a dare, secondo me, un input in più. Un po' britannico, praticamente. Britannico, tra virgolette. Devo regalare del whisky dopo questa affermazione. No. E poi oggettivamente... Io segno. È l'unico che va a tempo. Ah, per quello. Beh, ma fa parte del non beve. È per quello. Poi c'è un altro motivo. Che io vado molto d'accordo con Valerio, perché abbiamo gusti completamente diversi in fatto di femmine. Esatto. E quindi non c'è mai questa rivalità. Okay. E Cosu invece ci lascia fare tutto quello che vogliamo, non si capisce, e quindi anche lì si va forte. Perché non parlo della mia vita privata. Esatto. Perché Cosu non parla mai della sua vita privata. Parla solo di musica, esatto. Giustamente. Ok, allora sentiamo un altro pezzo. Chiaramente dal vivo, che cosa adesso, Valerio? Sentiamo Valerio. Un brano cognato biografico. Sì, perfetto. Che parla di mio cognato. E ok, basta. La tua passione è tutto. La mia passione anche. In fondo alle mie tasche. Niente. La chiave dei tuoi. Tesori. Ho messo il mio piede sinistro in fondo alla fossa. Quell'altro rimane appoggiato alla vanga. Sorrido da sempre. Lo strappo che avevo non è colpa mia, sicuro. Lo sai. Tasche non posso vederle da fuori, capirle nemmeno si sa. Il lupo randagio mi osserva con circospezione, mi guarda lo sguardo, mi mostra la stessa maniera di stile. Abbiamo qualcosa in comune noi due, i segni del branco e le cose del tempo, segnali di qualche passato. La luna è il fantasma di un'anima morta d'amore, muore e risorge la luna, la tua passione è tutto, la mia passione anche. In fondo alle mie tasche, niente, lo scrigno dei tuoi tesori. Muove preciso nell'aria, la sua evoluzione di essere puro consente accurato comando di volo, bianco e assoluto. Ripete la sua esposizione planare, divide lo spazio rimasto alla nostra portata di sputo. Il pipistrello si muove altrettanto preciso, lo vedo, mi lancia segnali di approvazione, conforto segnali di stile. C'è la sagoma d'uomo, la sagoma che corrisponde alla mia, il tempo che serve per fare un inchino pensando di avere di fronte il maestro. La tua passione è tutto, la mia passione è l'Inter. In fondo alle mie tasche, niente, la chiave dei tuoi. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Boni, Boni. Due minuti dopo le 23. Mercoledì 7 marzo con Alessandro Ducoli and his band. And his band. Su Blu Radio Veneto, Maurizio. Sì, perché i musicisti, cioè i nostri ascoltatori non lo sanno, perché quando un musicista poi ha suonato il pezzo mentre il microfono è leggermente spento, ma non è andato così, non è andato così, è andato bene Alessandro, cosa sì, c'era? Sì. Ah, perfettamente. Si sta sciogliendo, si sta sciogliendo, no, la... più di prima, più di prima. Perché Matteo non era sono le facce di Cossu che Matteo. Mi fanno ridere. Ma no. Cossu, ho sbagliato io. Hai improvvisato, improvvisazione, ma... Cioè... No, ma... Vabbè, ma ogni tanto capita. Bisogna improvvisare. Perché i pezzi proprio, si può dire, li volevo fare così. Sì, ma poi il problema è che io non riesco a suonare sempre tutto uguale. Ma io mi sono perso la figura del Barbagianni che era fondamentale nella canzone. Allora spiegala, no? Sì, questa frase è stata approvata anche dal mio professore di zoologia che mi ha detto è geniale questa cosa, perché il Barbagianni si muove preciso nell'aria, la sua evoluzione di essere puro consente accurato comando di volo, bianco e assoluto, ripete la sua esposizione planare. E lui mi dice, questa è una descrizione che noi potremmo mettere in qualsiasi manuale che si occupa di avifauna, così, a tutti i livelli. E per te... me era un onore, anche perché mi ha segato due volte all'esame e gli faccio, non è che possiamo... E secondo te, Ducoli, perché ho sbagliato? Perché volevi farmi raccontare che il professor Luigi Masutti, uno dei grandi faraoni dell'università... Ci siamo messi d'accordo prima, ma hai detto, sbaglia, mi raccomando, che poi la gestiamo in maniera diversa, capito? Era tutto calcolato. Era tutto calcolato. Siamo proprio d'accordo, la partitura è proprio cancellata. Ma al di là di questo, quando suonate te, Valerio e Matteo, improvvisate sempre oppure c'è un canovaccio? No, c'è un canovaccio, anche perché poi io sull'improvvisazione sono veramente un cane, per cui ho bisogno di elementi. Ma Valerio ha detto che ha bisogno di improvvisare qualche volta, no? Sì, io improvviso perché sbaglio, non mi ricordo le cose, allora a volte devo improvvisare per rientrare. Quindi sì. poca jam session. Ma la jam session è bella, però fa parte dello spettacolo, fa parte del vivo, sì. Oppure no, Alessandro? Io sono... Sempre... Nei dovuti rispetti. Essendo per il pubblico che vi ascolta. Essendo un musicista abbastanza mediocre, io jam session proprio, cioè suono la chitarra che mi serve per scrivere le canzoni, poi chiamo i musicisti che me le suonano. Perfetto. tu canti, però la voce è importante, certo, fondamentale. Certo. Sì. Però sei sulle jam session, bisogna ricordarsi le parole. Io faccio fatica a ricordare le mie, devo ricordare quelle degli altri. Ma con 22 dischi è logico che ti ricordi tutto, o no? Sì. Ma poi sai, il quaderno è il solito discorso. Tu tieni il quaderno perché se non ce l'hai i testi li dimentico. Matteo non è poi nel panico. Matteo non è niente, non ha nessun quaderno, non ha niente. Assolutamente. Cosso va tutto a me. Devo ricordarmi. Lui è l'enciclopedia del gruppo. Capito. Cosa dicevi, Sergio? Senza quaderno vai nel panico, se ce l'hai magari non lo guardi. Esatto, esatto, è questo è il senso del quaderno. Poi sì, io ho anche Stankovic e Toldo. Sei un interista, lo sappiamo. Toldo e Padovano. Toldo e Padovano. Sai che so che sei interista, è un vanto, chiaramente, però non so. È un interista croce. Juventino e cagliaritano. Io tifo Torino, mi dispiace. Vabbè, il grande Torino. Ok, benissimo. Adesso facciamo il giochetto, caro Alessandro, caro Matteo e caro Valerio, dei dischi da portare su un'isola deserta. È il nostro giochetto che va in onda da tanti anni. Cinque a testa e non si può copiare, la regola fondamentale. Ho fatto una volta una... Ti ricordi? Sì, sì, mi ricordo, anche perché ho dovuto... Ehi, Pita, c'è anche il tuo disco. C'è Pepita che non è molto d'accordo. Allora, il disco, adesso vedo di ricordarmi quelli che avevo già portato nella trasmissione... precedente. Uno sicuramente è New Moon Daughter di Cassandra Wilson. Ah, che bella. Che bello, bello disco. Cassandra Wilson non è un personaggio conosciutissimo da queste parti. L'ho vista però, qui a Padova, qui a Padova 2 o 3 anni fa, aspetta perché il cane... Cosa ti è sembrato? Il cane ovviamente Charan Dogs, no, mi è sembrato straordinario, sì. una cosa impressionante, anche perché era proprio il tipo di sound che volevo sentire, e dal vivo sentire questi personaggi suonare in quel modo. E che hanno un certo peso in musica. Sì, poi lei è straordinaria. Lei è molto molto brava. Una voce devastante, anzi dal vivo addirittura meglio che su disco, che secondo me è veramente una cosa impossibile. Certo. Secondo disco vai. Murder Ballads di Nick Cave. Ah, quello sì, quello lo amo alla follia. Un disco folk, ma non è un disco folk, è un disco di Nick Cave. Disco meraviglioso, con PJ Harvey che si insinuava dentro. Un disco straordinario. Poi, terzo disco... decidere. È difficile sacrificarne qualcuno. Beh... If I Could Remember My Name di Crosby, ecco, un altro disco epocale. Io non so, tu l'hai visto, io li ho visti a fine l'anno scorso qua a Padova con Graham Nash, ragazzi, qua, io ho detto tante volte ma lo ripetiamo volentieri, quando uno capisce che cosa vuol dire le armonie vocali californiane deve sentire Crosby e Nash, e là, lui capisce, là si capisce subito che cosa vuol dire fare un'armonia vocale. Quello è proprio uno dei dischi, poi la follia che c'è in quel disco è assolutamente... Poi il quarto... Oh, Pita, hai finito di rompere le scatole. Facciamo Rain Dogs, dai, così no, sei contenta. Il quarto è Rain Dogs, no, il cane si incazza. Ecco, Tom Waits. Ecco, Rain Dogs di Tom Waits, anche se non è il mio preferito di Tom Waits, che è il primo di Tom Waits, quello che preferisco, The Ghost of Saturday Night. A me piace Blue Valentine. Anche quello. E il quinto un italiano. Un italiano, Acquaplano di Conte. Ah, avrei immaginato che citavi Conte, l'avrei immaginato, hai citato un disco bello, significativo, importante, cioè nel periodo dell'importanza di Conte, poi, se mi hai consentito, sei leggermente, non dico fermato, però insomma non è come una volta, a mio parere. È ancora uno dei dischi goduti del Conte, proprio. Valerio, tocca a te adesso. Allora, in assoluto il primo The Dark Side of the Moon dei Pink. Come mai i Pink hai scelto The Dark Side, perché, nel periodo primo e periodo piacciono, dopo? Mi fanno impazzire, a parte sono, adoro i Pink Floyd. Non mi piacciono i Beatles, perché Matteo è pronto. Però i Pink Floyd, perché mi fanno impazzire, lo so, e mi emozionano sempre. Non adoro il periodo, il periodo psichedelico esagerato, tipo barrettiano. Magari, faccio fatica ad ascoltare quel periodo. Però The Side of the Moon, Wish You Were Here, che sono dischi che mi fanno impazzire, cioè mi emozionano, perché poi ci sono, sai, canzoni che sperimentano però melodie, certo, e quindi sono proprio canzoni con la sperimentazione, quindi comunque, infatti io adoro comunque molto anche Radiohead, certo, quindi, certo, un altro, quindi c'è un collegamento, no? Mi piacerebbe molto sicuramente OK Computer o anche lì hai preso il biglietto? Sì, sono andato a vederli a Bergamo. Però dal vivo ti dirò, non mi hanno entusiasmato. A differenza, cioè, il problema, secondo me, dei Radiohead è che presentavano Amnesia. Sì, disco difficile. Molto difficile. però i due chitarristi non suonavano, cioè, facevano accordi poi coi filtri, tutto il concerto è stato così. Quando poi hanno fatto Karma Police, finalmente ho respirato. Perché tutti comunque, si sono sciolti. Perché. Sì, perché comunque, vabbè, dal vivo non mi hanno esaltato, quindi non so se andrò a rivederli. Okay. Mentre, vabbè, The Bands, OK Computer, quei dischi lì, vabbè, sono qualcosa di spettacolare. Poi, dopo, un altro disco porterei Parachute dei Coldplay. Ah, bello, che secondo bello. Me è un grande disco, ragazzi, bello, non c'è da dire. Bello, cosa ne pensi? Poi no, loro due mi guarda come dire sei un imbecille. No, no, no, Sergio, anche lui, Sergio, ha provato. Allora, secondo me, guarda, perché poi ci sono delle cose importanti da dire. Secondo perché me sono puliti, loro, onesti. Loro che ascoltano solo musica anni 70, cioè chiaramente sono dei tamarri, però la musica si è evoluta. La musica si è evoluta. No, obiettivamente. Vabbè, certo. È un disco che secondo me ha cambiato il pop. Ha cambiato comunque il pop. È un gran disco, non ho mica detto niente. Sei tu che secondo me hai paura di dire no, questa perché cosa. Cosimo, guardate come per dire, ma cosa stai dicendo? Dai, Cosu, cazzo, lui porta gli Who e basta. Lui ha 5 dischi degli Who e basta. No, quindi dicevo, è un disco che mi piace molto, molto, molto. Poi altre cose, beh, porterei sicuramente Parsifal dei Pooh. Ah. Scherzo, era una battuta questa, dai. No, un disco italiano. È un concept album. Sì, un concept album. Un disco italiano. Vabbè, te. No, non so, un disco italiano non so cosa potrei portare. Un cantastorie dei giorni nostri di Claudio Baglioni. No, non lo so, adesso ci penso. Intanto parla con Cosso che ti racconta. Vai, poi vai, Matteo. Io rifletto su altri dischi. Ma io prima ho riflettuto, caso, adesso me ne vengono in mente 500. Anche a me adesso. No. Sicuramente il primo disco che porterei. Vai. Posso dirlo io? Devi dirlo posso tu. Dirlo vediamo io. Se Revolver. Esattamente. Beh, Revolver. Posso dirlo io. È stato epocale. È un disco che, secondo il mio modo di vedere, ha cambiato un po' proprio la storia in generale della musica rock, pop, certo, eccetera. Certo. Perché è un disco innovativo, perché considerando che è solo nel 66, secondo me, nel senso, per sentire un pezzo come Tomorrow Never Knows in quegli anni, adesso è facilissimo con una tastiera, fa tutto. Sintetizzatore, vabbè. Fai tutto, ma in quel tempo concepire un brano del genere, anche un album, secondo me bisognava essere molto avanti. Oltre, anche perché i Beatles non sono She Loves You, Love Me Do, no. Ma se uno ascolta i Beatles sono da Revolver in poi, certo, cioè, certo. Io preferisco ascoltare quei Beatles. Ok. Poi un altro album sicuramente Who's Next degli Who, perché c'è Baba O'Reilly dentro. perché sono loro, poco fa. E cosa ne pensi di Roger Daltrey che viene a fare Tommy fra qualche giorno, venerdì prossimo a Padova? Io nel senso non mi piace molto la hardcore, quindi io purtroppo nel senso sono tradizionalista e mi sono fermato agli Who quando erano tutti assieme, perché agli Who il vero valore loro era quando erano tutti assieme, quindi poi era una macchina al basso. No, vabbè, no, oltre al basso, bassista incredibile, nel senso John Entwistle è morto dopo, invece quando è mancato Kid Moon, secondo me c'è un po' La macchina si è degli rotto. Who, tra virgolette, sì, si è un po' rotto qualcosa, perché non sicuramente la parte folle degli Who sicuramente era un'altra metà folle, che l'altra metà era Entwistle, sì. La metà era anche se era sempre perfetto, esatto, quando suonava sempre perfetto, esatto, però erano loro, e poi da lì secondo me gli album poi sono andati un po' così, sì, esatto. Poi sicuramente Vitalogy dei Pearl Jam, perché... Come hai scelto e non hai scelto te? Ti faccio un'ipotesi. Ma perché Vitalogy è suonato, secondo me, in una maniera eccezionale, anche perché c'era un batterista, secondo me, che io amo tantissimo, che è Dave Abruzzese, certo. E ai tempi, secondo me, la differenza, secondo me, in quell'album, a parte i brani, che ci sono dei brani eccezionali, come Nothing Man, sì. che è di Jeff Hammond, l'ho detto, del bassista. Certo. Però quella sezione ritmica assieme a Jeff Hammond di Dave Abruzzese, secondo me, è assurda, sono eccezionale, quindi per me è un album eccezionale davvero. Benissimo. Di vista. Mi pare, ne è ancora uno, mi pare, sbaglio. Uno, io due ancora, ne però ancora due. Un italiano. Un italiano, dai. Io adesso ne dico un altro, a me piacciono molto gli Aphrodite Childs. Ma perché no? Quindi porterei un album che non è proprio di Aphrodite Childs, anche se è uscito a loro nome, ma un album che si chiama 666. Il famoso 666. Che è un album progressive, esoterico, cioè, esoteric rock, diciamo. Sì, sì, sì, esatto. Parla praticamente, è un album, un concept album di Vangelis. Ci stiamo suicidando. Sì, è vero, in effetti un po'. Però secondo è, diciamo, un album che è stato rivalutato dopo. Sì, cioè, molto dopo, nel, sì, esattamente. Nel periodo, perché nel tu ti ricordavi It's 5 O'Clock, esatto, esatto. Invece Vangelis ha, diciamo, creato questo album parlando un po' dei Cavalieri dell'Apocalisse, sì, di San Giovanni, eccetera. Cosu, c'è Cromo che mi dice di licenziarti. Basta. Licenziamolo, Cromo. È un bel album comunque. Beh, no, no, è bello. È uno italiano, il capo di professore italiano. Beh, è eccezionale. A me piace molto quello che non c'è degli After Hours. Mm. Ah. Per me è un dove c'è tabi, tabi, da, tabi, da, non è per sempre. Non no, quello non è per sempre. No. Quello che non c'è è praticamente... Quindi Manuel Agnelli praticamente. È un, secondo me, è un grandissimo album. Beh, oltretutto tutti i brani di quell'album sono tutti orecchiabili, secondo me, a parte suonati da dei grandissimi musicisti. Certo, certo. E questi sono gli album che porterei io. Diciamo, italiano, dovrei pensarci, però quello che mi è venuto in mente è che secondo me è davvero un grande... Mm. Sì, esatto. Mancano due di Valerio, se Valerio... pensato. No, non ci ho pensato. Facciamo così allora. Stavano usando le mani. Adesso, adesso facciamo sentire un pezzo dall'altro Bravo. Disco che hai scelto, che ha un titolo, me lo puoi dire te? Artemisia. Moita, abbiamo scelto Moita. Sì, sì, sì, sì, certamente. Brano estivo, dai, annunciamo che cambia, che è finito l'inverno. Ah beh, certo. È un brano importante perché... Mi piace perché è piaciuto molto alle donne. Ah, bene. E che secondo me è un ottimo successo. Va meglio anche del fatto che non ti chiedano se vuoi un contratto discografico. Ah. Cioè, sì. Se tu quando vai a suonare le ragazze ti chiedono: ma è bella quella canzone scritta per te. A tutte. Benissimo. Ok, sentiamo allora. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Fresca come ghiaccio e menta, che dissetano la calda vita, che cancellano la mia fatica per la tua. Usami per la tua sete, vestita con un sole giallo, sale che diventa dolce sul tuo collo. Sono una più piccola barca, perduta nel tuo grande mare. Pirati, drogati e mercenari. Sono la bandiera bianca di fronte alla tua grande guerra di mestiere e di passione. Erba della mia salute, medicina della mia natura, di animale da cortile. Mettere a posto tutto quello che mi resta buono per continuare. Fresca come ghiaccio e menta, che dissetano la calda vita, che cancellano la mia fatica per la tua. Usami per la tua sete, vestita come un sole giallo, sale che diventa dolce sul tuo collo. Sono la più piccola goccia, non riesco a fare grande il fiume derubato dagli ingrati. Sono l'ultimo soldato a difesa della prima linea di confine dalla tua fine. Centro della magnitudo, cura della mia natura. Animale disarmato, lasciami rimettere a posto tutto quello che mi resta buono per continuare. Fresca come ghiaccio e menta, che dissetano la calda vita, che cancellano la mia fatica per la tua. Usami per la tua sete, vestita come un sole giallo, sale che diventa dolce sul tuo collo. Sale che diventa dolce sul tuo collo. Sale che diventa dolce. Sale che diventa dolce sul tuo collo. Thank you. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Diciamo interessante sapere gli arrangiamenti di questo pezzo, che è molto estivo, molto vivace, molto accattivante. Innanzitutto le tastiere quasi tutte le suonava Valerio in questo disco. Sì, le tastiere sì, il pianoforte invece Andrei Kutov, che è il pianista con cui mi sono accompagnato anche per il periodo successivo. Questo era proprio un disco estivo, dico, non dico in contrapposizione a Brumantica, che è un disco, più crepuscolare, sì, mettiamolo così. Però fa parte del progetto, seconda parte. Fa parte del progetto e volevamo iniziare con un brano proprio... Botanico, hai detto, un disco botanico. Botanico, Artemisia Psyntium. Esattamente. Quindi gli arrangiamenti abbastanza interessanti, anche se tu hai detto questo, tu hai scritto solamente il testo. Molte canzoni. Molte canzoni sono state scritte da chitarrista. Da Mario Stivala, che è il chitarrista con cui io lavoro da sempre praticamente, e con cui faccio buona parte dei dischi a nome Alessandro Ducco. A nome tuo praticamente. Sì, poi sul rock and roll preferisco arrangiarmi o quantomeno, ma su questo sound un po' più elaborato ho bisogno veramente di un musicista più completo che mi... La sostanza Mario mi porta il brano, mi dice secondo me questo può diventare una canzone. E poi la melodia che è molto accattivante in questo pezzo, chi l'ha scelta? L'arrangiamento l'ha fatto Valerio? No, le melodie e gli arrangiamenti, allora le melodie le faccio io, io prendo soltanto la musica ibrida, come Mario dà già un'idea diciamo definita del brano, poi Valerio ovviamente finisce, completa tutta la faccenda, oltre il paracarro, è il paracarro che ti impedisce e lo ha prodotto anche questo, no? Sì, questo proprio è il disco, il primo disco che hai prodotto te. Lolita Spaz. Sì, questo però è il primo disco diciamo con una band. Sì, con una band. Prima era tutto più Lolita Smalti, era più elettronico, un esperimento. Un esperimento, sì. Dove Lolita di che anno era praticamente? Lolita è il primo disco, assoluto, il primo disco a tuo nome. È del 97, 96 mi sembra. Come mai era così elettronico? Che motivo? No, quello era suonato... Il primo un jazz da charlatani. Un jazz da charlatani, da ubriachi d'osteria. L'hai fatto 10 anni dopo? E 10 anni dopo mi sono inventato questa cosa dell'invecchiamento del whisky, quindi l'ho chiamato Lolita Smalz. Capito. Con il master distiller che prende lo stesso whisky e decide come invecchiarlo e viene fuori un disco diverso. Per cui ho dato il disco a Valerio e gli ho detto guarda fai tu. È stato un bel progetto, mi piace molto. Dal vivo quando lo fate ancora quel disco? Dal vivo non più. Lolita già conteneva Ho trovato l'oro, Nude e cruda, brani, insomma. Che Ho trovato l'oro, dobbiamo ripetere, che lo fai ancora dal vivo assolutamente. Certo. Bene, dal vivo adesso cosa facciamo a proposito? Sono 23, dal vivo 22. Adesso facciamo... Facciamo lettera. Che mi piace molto, andiamo è tratto da Brumantica. Sì, un pezzo molto bello, molto interessante, che per un mese e mezzo ha cercato di, almeno nel nostro posso piccolo... Posso raccontarti la storia vera dimmi, lettera. Certo. Allora, la storia è questa. È dedicata a tutti quelli che... C'è che ci sono una serie di persone che sono molto amate nei bar, sono quelli che entrano e dicono sempre cosa bevi? Che sono in estinzione, mi rendo conto, ma non è colpa di nessuno. Ci sono alcuni di questi personaggi che proprio passano la storia, perché improvvisamente scompaiono. Quale sarà il motivo? Si fidanzano. Ah, perfetto. Quindi non vengono più al bar. È la storia di un mio socio che non è riuscito a leggere nella parola "in questa casa manca un tocco femminile" la sua condanna a morte. Perché dopo 3 mesi si è trovato la casa completamente riarredata, ma lui fuori. Ah. Questo è il sunto di lettera. Faceva parte dell'arredamento vecchio. E questo mio amico, a parte che gli sono state mandate al macero nell'inclemente inventario finale, cose abbastanza importanti per alcuni maschi, ad esempio non so, gli album di figurine Panini, queste cose qui. Ma aveva anche la chitarra, la racchetta di Vitas Gerulaitis, che gli aveva dato a Roma, lui quando era bambino era andato a vedere gli internazionali di Roma, e per una femmina, figurati, la racchetta di Vitas Gerulaitis è assolutamente inservibile, e gli fu buttata via. Mamma un mia. Cambio di lampade che è stato terribile. E a lui ho scritto questa canzone, questa l'ho scritta io dopo, vabbè, è stata riarrangiata, eccetera. Però volevo proprio parlare di questo mio amico. Adesso è tornato nel bar, offre ancora da bere, però è segnato molto. Benissimo. Ok, allora. lettera d'amore, lettera d'amore. No, non la scrivo più e non ho più parole e inchiostro come un mostro. Mi nascondo e mi difendo. Una lettera d'amore non si deve comandare, bisogna anche calcolare che può anche far male. L'indirizzo era il mio, mentre adesso, amore mio, è sconosciuto e si confonde e si nasconde nelle case e nelle tasche della gente. Sta passando il temporale su di me, proprio adesso che non ho più la parola. E nell'istante che si abbatte un temporale, sono qui, io senza niente. Lettera d'amore. Scriverò. Ma... Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, giustamente tu dicevi il romanticismo vince, ma questo è un pezzo molto bello e ti sta bene alle 23:27 in diretta stasera a Rock Wave del mercoledì. Bello, molto fatto bene, arrangiato con una certa maniera. Poi Valerio dà un certo tocco, bisogna dire, anche un tocco finale. È il più romantico del gruppo. Tocco finale. No, perché ci sono varie definizioni di questi brani, adesso non si può dire. Non si può dire, non si può dire. Sono i tre gradi di giudizio dei Lupitas Project. Del giudizio. Del giudizio. Dal vivo lo fate così oppure più così, accentuato? Così, poi dal vivo c'è tutta la parte teatrale. Dal vivo, anche qua dal vivo, ma dico con strumenti non prettamente acustici. No, questo è il set, diciamo... strumentale questo, poi è tutto più teatro, più tutte le presentazioni poi vanno avanti col cabaret. Fa parte dello spettacolo. Poi ecco, io dico sempre che non, le donne le tante facce non devono offendersi le donne quando nelle presentazioni, anche perché domani è la festa della donna. Certo. Per cui io dico sempre che essendo canzoni che si possono anche completamente ribaltare, questa parla di una che quando entra il suo fidanzato in casa gli dice in questa casa manca un tocco maschile, così la puoi leggere a modo tuo e la puoi ribaltare completamente. Esattamente, questo è il senso, sono riuscito a dirlo nonostante tutto. Bene, 23:29, 14 secondi, siamo quasi, no, abbiamo ancora mezz'oretta abbondante, vero Sergio? Quindi abbiamo tempo di ancora di sondare tutte le tue, ma tutti i tuoi progetti, ne abbiamo parlato poco dei tuoi progetti, quello più nuovo che hai adesso tra le mani, che cos'è? Adesso il progetto è nuovo, si intitola Sandro Piteco ed è il disco con cui in teoria vorrei ripropormi. In che veste? Ma dopo la trilogia pensavo proprio di ripartire dalle origini, per cui volevo un disco preistorico. E quindi grezzo, sa, proprio rock and roll spaccato. No, è un disco stranissimo. Abbiamo fatto io e Valerio e mi piace molto. Adesso non abbiamo capito se uscirà come doppio o come terzo. Valerio, ah, te l'avevo, sì, detta, okay, questa cosa, ma... come doppio o come terzo, cioè doppio in che senso, doppio album o doppio album, doppio CD? Sicuramente doppio. Poi dopo sarà su un CD solo, perché sai i costi, sì, i costi sono quelli, che costa. Però ecco, siccome è stato rimandato, abbiamo già realizzato uno finito, abbiamo rimandato, stiamo realizzando il secondo e probabilmente usciremo a ottobre, a novembre, per cui magari c'è spazio per farne ancora uno. Ancora uno, praticamente. E poi l'altro progetto adesso è il Lupitas Project, con cui vado in giro a fare la mia parte di rock and roll e a rivendicare un po' delle origini vere, che poi sono quelle del rock and roll, a parte Sandro Giacobbe, quella gentaglia lì. No, Sandro Giacobbe voglio molto bene anch'io, devo dire. Era altri che ho dovuto subire, che erano per peggio. Tanti anni. E quindi stiamo facendo questa cosa, è un folk rock abbastanza canonico, si avvicina molto alle sonorità di Neil Young, per come quello elettrico o quello non elettrico? Una via di mezzo, secondo me, molto molto riuscita. Poi non devo essere io. Non ci sono i Crazy Horse nel tuo DNA? Eh sì, i Crazy Buck col matto erano era un po' Crazy Horse. Eravamo la costola povera dei Crazy Horse, proprio eravamo visceralmente legati al live world, proprio penso che lo facevamo tutto dal vivo. Ah, è un disco durissimo. Per cui c'è questa parte qui che mi sta divertendo molto, e alcuni brani sono cantati anche in inglese, per cui è una parte che mi piace molto. Tra l'altro sono dischi che trovo riusciti, ne ho fatti 5 con lo pseudonimo di Cletus Cobb, quindi sono di rock and roll, un po' folk, sono anche discepoli di... Sempre prodotti da Valerio. Sempre prodotti da Valerio, sempre pagati da Valerio, eccetera. Ma possiamo fare un brano da questo? Sì, facciamo un brano. Facciamo questo brano qua, perché tra l'altro, no, dicevo che sono scritti in inglese, però in un inglese abbastanza maccheronico, che era una scelta abbastanza voluta. Però sai, ci sono molte persone che vengono a romperti le scatole se utilizzi alcuni termini in maniera... un po' così. Elio li utilizza bene, come in teoria dovrebbero essere usati per fare delle... Alcuni invece ci credono davvero, scrivono first me, second you, queste cose qui. Allora, questa canzone si intitola Little Potato, patatina, e la maestra d'inglese, che è di Londra, che mi correggeva i testi, dice: ma perché patatina? Faccio una frase d'amore. E lei mi dice: ma non si usa, non si dice. Io, si dice, Rachel, si dice, non sai quante volte si dice. E parla di uno che spende tutti i soldi ad Isla, l'isola del whisky, e deve tornare pelando le patate in barca, perché per poter tornare, ecco, deve pelare le patate sulla nave, altrimenti non lo fanno tornare. Lì è andata malissimo, la storia d'amore è andata malissimo. Facciamo, perché è un brano che mi piace molto. Ok, ok. 1, 2, 3, 4. You are my gasoline. You are the safety line to me. You are my pity flower. You are the wild still water running and playing through the grass in this land. Again, yeah, I'm peeling up potatoes, oh mine, and I'm peeling up potatoes all the times when the boat leaves shore of the isle tonight. You are my road back home. You are my little boat. Sailing in the light of the moon on my mind. You are my birthday gift, the end of a hard day's work. We're in the shallow of the bay in the sun, and I'm peeling my potatoes again. Yeah, potatoes, oh my. And I'm peeling my potatoes all the times when the boat leaves the shore of the isle tonight. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 23:35 ancora con Alessandro Ducoli e su Blu Radio Veneto. Maurizio. Questo è un pezzo bellissimo, a me è venuto in mente, non so se siete d'accordo, certe cose che facevano i Kinks un po' di anni fa. Cosso, i Kinks, sì, scritto perché da Cosso. Secondo me sì, non so, no, cosa dici Matteo? C'erano molto i Kinks, quindi e Kinks, sì, ma i Kinks di Arthur, sai, quelle opere rock, sì, avevo qualcosa di cabarettistico, non era un pezzo di cabaret questo qua, però il pianismo di Valerio, il tuo basso, l'arrangiamento potrebbe ricordare, ricordare un po' i Kinks. In effetti, secondo me, noi siamo più portati a suonare queste cose, oggettivamente. Meglio, meglio. Sì. Non è vaudeville, assolutamente. No, no, però vabbè, veniamo tutti un po' più dal rock, quindi siamo più portati, magari certi pezzi con un approccio un po' più rock and roll, sì, ci vengono un po' meglio. Ma questo era bellissimo, secondo me, era una chicca proprio fatta proprio bene, inserita bene, e mi proprio in mente i Kinks, poco da fare, ma i Kinks è un gruppo straordinario, i Davis, i fratelli Davis, anche se... Non sono i fratelli Gallagher che facevano baruffa, hanno fatto baruffa anche loro, però avevano un'altra importanza. E questo genere, questo gioco tra il piano e il basso con la voce tua, Alessandro, avevano questo indice. Toccavano il 64, 65, 66. Grazie mille. Lo vedo, lo sento in questa maniera. Scriverò a Rachel a Londra, dirò a Rachel, guarda che la tua patatina è andata fortissima. Ma veramente, dal vivo lo fate così oppure lo accentuate? Questa non la fate. No, sì, la facciamo. Nella versione così di Brumantica la facciamo in questo modo. Sì. Poi nella versione... con i Lupita se la suoniamo in maniera un po' più rock. Diciamo. A proposito, Alessandro, non te l'ho detto, c'è un po' di percussione nei live. Sì, abbiamo un percussionista, allora quando si suona, diciamo, la parte brumantica, lui ha un set proprio cubanista. Ah, cubanista. Quindi congas, eccetera, con i Bartolinos usciamo. Ho capito. Che è anche lì un altro, che è la band con cui sostanzialmente è stato suonato il disco da cui abbiamo ascoltato Moita. Invece con i Lupitas viene con un set roots veramente veramente crudo, cioè il cajon, una serie di suonettini, robe molto simili alla nuova impostazione del roots rock americano. Adesso va molto di moda il cajon, per cui sì, anche noi ci siamo adeguati alla moda. Bene, quindi progetti che hanno sempre un filo comune denominatore, che è la tua voce. In ogni caso, la tua voce porta sempre, messa in una maniera così molto alla Kinks o in una maniera molto sofferta alla Tom Waits, c'è sempre la tua voce che dà le mire, dà gli stimoli a Valerio e a Matteo a fare per certe fortuna cose. Ragazzi, stasera le birre le pagate voi a me, però. No, cosa dici Valerio? Io sono assolutamente d'accordo, assolutamente. Lui, cioè, questa è la sua voce. Certo. E quindi, comunque, tornando al discorso che avevamo fatto all'inizio, la mancanza di personalità delle sue prime produzioni è venuta fuori, poi adesso la sua personalità è totalmente sua, cioè lui. Lo riconosci comunque sia nella versione Cobb che nella versione Ducoli, cioè sì. Quindi è lui. Quindi anche quando facciamo rock and roll, che comunque è completamente diverso da quello che è, la sua personalità esce totalmente, e questa è la cosa fondamentale, perché poi lui deve fare questo. Non deve venire in studio a rompere, poi insomma, deve cantare. Ho capito. Questo è vero, amiche. Proprio. È una grande voce, una grande voce, una grande personalità in questa voce, poi assolutamente. Sì, è fondamentale. Sei d'accordo, Cosu? Sono perfettamente d'accordo con Valerio. Stasera facciamoci pagare le birre. No, ma guarda, è bravissimo, è incredibile. Penso che una persona, quando suoni da un po', può permettersi di essere obiettivo sulle cose. Se Ducoli non sapesse cantare, direi Ducoli. Non sai cantare. Con la fortuna. Non si è mai tirato indietro nessuno nel dirmelo. Bisogna dirlo, invece. Sì, è successo. E poi è un dono di natura. Scrive bene. C'è anche questo, cioè non c'è solo la voce, importante... i brani sono suoi, quindi... Sì, la scrittura è importante, però chiaramente ci vuole anche... Certo. Ci vuole anche... Oltre alla scrittura, cioè la colorazione musicale, che non è semplice. Sì, è importante, la scrittura è fondamentale. Però se la scrittura è. Però non c'è anche la corrispondenza. Esattamente, deve essere supportata da questo discorso. Assolutamente sì. Dunque ti abbiamo fatto complimenti. Grazie ragazzi. Ok, adesso non so cosa abbiamo in scaletta. Cosa dici, Sergio? Cosa c'è in scaletta? C'è la traccia 5 di Artemisia. La sentiamo, cosa dite? Sentiamo. Ok. Rockway, l'onda del rock. Questo tempo senza guerra, che lasci che mi possa rialzare. Non sono ancora pronto, mi servono cannoni più precisi, le mappe del tuo campo di narcisi. In questi pomeriggi di armistizio serve un diversivo un po' diverso, il mio non garantisce il risultato. Aggiungerò due gocce di stramonio nelle foglie che coltivi con il bacio e con l'amore, per drogarmi con lo zucchero e finirmi mentre sogno che mi vuoi è la migliore soluzione per fuggire dall'assedio. Io ti aggiungerò due gocce di stramonio nelle foglie che coltivi con il bacio e con l'amore, per drogarmi con lo zucchero e finirmi mentre sogno che mi vuoi, perché un assaggio di alcaloide è la migliore strategia di sabotaggio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ultima ventina di minuti, Maurizio, insieme ad Alessandro Ducoli. Sì, esattamente, ad Alessandro. Hello. A Valerio Gaffurini, che suona il piano, stasera il piano elettrico, e a Matteo Cossu al basso, alla U. No. Alla U. E si chiama Cossu. Cossu. Ti piaceva molto questo album, vero Alessandro? Sì, molto, proprio... È proprio l'album tuo preferito. Me lo sono goduto proprio, è stato proprio bello sia la fase di scrittura ma anche la fase di realizzazione, proprio perché poi la costruzione di un album è sempre è abbastanza stressante. Sì. Poi io devo star su, correggere, rifare, eccetera, poi in studio qualcuno funziona, qualcuno non funziona. Certo. Cioè qualcosa funziona, qualcosa no. E questo proprio è andato via come... È proprio stato proprio un disco divertito e ha quella dolcezza anche in brani abbastanza difficili come l'ultimo, come il brano chiude il disco che è dedicato a Jack London, conserva comunque molta dolcezza e molta serenità, per cui è un disco che mi piace ancora ascoltare. Il problema è che ho finito le copie di sto disco, se qualcuno volesse pagare. A proposito, diciamo dove si possono trovare i tuoi dischi, diciamo il tuo sito. Cioè. Guarda, io ho un sito abbastanza becero, si chiama ducoli.eu, fatto con Word perché proprio non ci arrivo, oltre non ci arrivo, però ci sono tutte le informazioni che servono, basta mandarmi una mail, i dischi io li spedisco a casa, non... in genere chiedo beni di conforto in cambio. Oppure domani sera al Cancari a Mira. A Mira, sì, provincia Venezia, qui vicino. Lì ci sarà proprio il concerto, poi presentiamo libri, dischi, tutto quanto. Altre tue date ti ricordi? Cossu. Dai Matteo, forse. Domani a Mira, qui in provincia di Venezia, e poi prossima settimana, i prossimi giorni. Parlo delle nostre date, ne abbiamo una con i Lupitas nelle nostre zone, 17 No, è sabato abbiamo Bergamo, no? A Bergamo sabato. Ah, è vero, già il 10, hai ragione, il 10 a Bergamo. La bocciofila. Esatto, il Bopo Ponteranica. Poi il 17 suoniamo sempre nelle nostre zone vicino a Malone con Lupitas, Project in Elettrico. Poi il 21 siamo in Trio, vicino a Chiari. Il 30 siamo sempre nelle nostre zone, il 31 siamo in una bellissima manifestazione con Brumantica a Bergamo. Sì. Con l'associazione Soffia nel vento, esatto, in cui suoneremo vicino al Donizetti, al teatro di Bergamo. Bene, bene. Interessante. Oh, bella. Quindi ci sono dei momenti in cui suonate Brumantica, altri momenti Cobb, a seconda diciamo, esatto, del target che ci viene richiesto, insomma, diciamo. In birreria il rock and roll funziona, certo, chiaramente. Al Circolo Arci funziona meglio la canzone d'autore, per cui, però ecco, siccome ormai il repertorio è vastissimo, c'è questa fortuna di essere anche abbastanza versatili, per cui di riuscire ad adeguarsi a situazioni più folli, più diverse praticamente. Sì, esatto. E visto che abbiamo parlato e citato il rock and roll, mi pare che c'è l'idea di fare un pezzo di rock and roll adesso oppure dopo? C'è, dopo. Sarà il rock and roll italiano. Fate quello che volete adesso. Allora cosa facciamo? Volevamo fare questo brano così. Che vuoi dedicare a una persona? Allora, abbiamo fatto un disco con i Lupitas. Tra l'altro prima citavi gli indie, il nuovo disco dei Lupitas che stiamo realizzando si intitola I Never Shot an Indie. Non ho mai sparato a un indie, perché ne parliamo l'anno prossimo quando esce. Quando verrai a presentarlo qua. C'è un disco dove noi abbiamo scritto questa canzone che parlava di Yoko Ono, si intitola Real Yoko. Sì. E parla un po' della... abbiamo descritto Yoko Ono forse dal mio punto di vista, Cosso, magari non è così, che amava andare in giro a fare shopping con la carta di credito di John Lennon. Diciamo che è una canzone dedicata a Yoko, però forse dedicata è una parola, è un eufemismo. Nello stesso disco abbiamo inserito anche una canzone dedicata a Moana. Che ho scritto quando ero in caserma, perché ero fidanzato con lei, la vedevo praticamente tutte le sere e mi ha dato tantissimo e io gli ho dato veramente tutto e mi sembrava giusto proprio in quel periodo lì, Moana è mancata, dedicarle questa canzone, inserirla nello stesso disco affinché la gente potesse valutare quale delle due era la santa. Ho capito, okay? Benissimo. Thank you. sempre. Insegnami la luce del mattino, amore mio. Prima della notte e dell'inverno, si spegne. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, un pezzo molto bello, molto d'atmosfera. Volevi dedicarla a a qualcuno? Beh, siccome è la festa della donna, volevo dedicare a Moana. Ecco, domani verremo fucilati al Cancari. Non so perché abbiamo scelto sta data, ma devi dire. Non lo so, infatti non lo so, ma probabilmente che ci saranno tante femmine per quello, no? Sì, noi siamo romantici, quindi secondo me riusciamo anche a creare quella curiosità, sai, in quest'area burbera le femmine vedono, certo, un sacco di difetti da correggere, la loro fantasia. È vero, questo è, questo è vero. E quindi noi domani suoniamo comunque professionali, eccetera, eccetera. E poi anche il discorso del romantico, anche la tua voce stasera, adesso in questo pezzo, era molto romantica. Cioè, ha quella tonalità, come giustamente diceva Valerio, ha quella caratteristica di sapere inserirsi perfettamente nel canovaccio musicale, c'è poco da fare. Grazie. Hai quei piccoli andamenti e poi si alza, si abbassa a seconda dei momenti. Ed hoc proprio deve essere così, vero Valerio? Assolutamente sì, sì, proprio così, assolutamente. Basta, adesso io non faccio più complimenti. È l'arrangiamento di piano. Poi effettivamente l'arrangiamento del piano, insomma, cioè, ci sono questo amore, questa anche per Moana, cioè, voglio dire. È la figura di Moana. E comunque il mio romanticismo, sembro anch'io burbero, però poi fondamentalmente non. Quello romanticismo c'è sempre, praticamente esiste, anche se anche il rock and roll, c'è il rock, c'è quello forte, perché è bello che sia. Le diverse facce di Alessandro, ha fatto 22 dischi, quindi tanti dischi da solista, tanti dischi da gruppo, tanti dischi da rock and roll. Poi alcuni scritti per altri. Alcuni scritti per altri. Cioè, progetto che continua e sempre in movimento. Sempre, abbiamo ripetuto sempre all'inizio di trasmissione. E continuerà. Continua, deve essere così. È il tuo modo di far musica, o no, Alessandro? Eh sì, quando finiscono i soldi, basta. Quando finiscono i soldi, questo è vero. I soldi, l'amore. Questo purtroppo è. Credo che sia una missione ormai, cioè una necessità. Una continua tassa da dover pagare al rock and roll, certo. E a Valerio. È Valerio. Però il discorso di fare musica indipendente, Valerio, quindi che è il produttore, indipendente in tutti i sensi, è faticoso, sì, anche economicamente è rischioso, però in ogni caso è sempre libero, non hai barriere, sì, che ti possono fermare. Hai deciso di fare, te Alessandro e Matteo, una cosa di questo genere. Andate avanti. Per forza, sì, sì. Questo punto di vista. Dimmi. Una fortuna, perché si è liberi, cioè, quindi è una cosa fondamentale, soprattutto nella musica, poter fare. Cioè, anche che in Italia è difficile fare una cosa di questo genere, molto difficile. Difficile, nel senso. Complicato, al di là di. Perché c'è una mentalità, secondo me, un po' sbagliata. Sì. Cioè, che con la musica vuoi arricchirti, e invece, secondo me, alla fine lo fai per passione. Devi arricchire la gente, esatto, con la musica. Dovrebbe arricchirti la musica, non, esatto, nel senso economico. Sì, non arricchirti in senso economico. E quindi vogliono tutti fare successo, arrivare al successo, assolutamente, quella è la cosa prioritaria. E questa è la mentalità un po' che c'è, soprattutto in Italia. Questo è un po' quello che io penso. Invece fare musica è passione, è amore per la musica. Valerio, siete stati anche all'estero per poter fare un discorso di comparazione? Beh, un po' sì, comunque sì, si conoscono anche musicisti stranieri e c'è sicuramente, secondo me, in tanti paesi. Io lavoro anche con dei cubani e comunque lavoro anche con altri musicisti, con lì e con Cossu, e ti assicuro che comunque, per dirti, questi cubani hanno una visione un po' diversa della musica, cioè comunque loro pensano di arrivare anche loro in Italia, però comunque là la musica viene fatta in maniera un po' diversa. cioè, anche perché di soldi non ce ne sono così, certo, tanti. Quindi comunque, neanche qui adesso, chiaro, chiaro, che però comunque è proprio un approccio diverso, l'amore per la musica, che secondo me a noi, sì, in Italia va, manca un po', manca un po'. Ho fatto un disco con Mark Ribot, cioè gli ho mandato il disco, gli ho detto mi piace. Basta. L'ha suonato. Gli ha mandato i file. Gli siamo mandato i file dicendoci so, addirittura, tanto adesso col computer si può fare di tutto, quindi tagliate, prendete il solo se non vi piace, cioè abbiamo editato un solo di Mark Ribot, pensate. E quindi è questo l'approccio anche diverso. Ho capito, questo è il motivo. Benissimo, sono le 23.55, Sergio cosa dici? Facciamo fare, concludendo, due pezzi da loro, cioè uno prima facciamo un pezzo, poi li salutiamo e poi finiscono con un altro pezzo, cosa dici dal vivo? C'è anche la traccia 10 di Easy Love. Voi mettiamo la 30 10 o facciamo, no, due live? Benissimo, facciamo due live allora. Okay. Cominciamo con il primo adesso. Il primo è Giovanna e parla di quelli che vanno al mercato a importunare le sciure con la busta della spesa. Ah, ok. Armando e non ho fatto mai del male a nessuno e non intendo cominciare stasera. La mia testa qualche volta ha camminato da sola. Questo mondo fa il bastardo e io non sono di meno, ma un romantico distratto che si perde per niente. Faccio anch'io quello che posso, faccio sempre qualche cosa di troppo. Ma te lo giuro Giovanna che non sono cattivo, sono tutte bugie di chi muore d'invidia. Te lo giuro sono sano, sono un pezzo di pane, dammi un beso, sono teso, con le frottole ho chiuso e ti ho già detto che ti amo due volte. Sono frastornato quanti odori che ci sono a primavera. Quante cose puoi trovare per la strada, quanti fiori che ci sono fuori casa, tutte buone le signore da bottega. Oggi c'è il mercato nella piazza del paese, vado fuori a farmi un giro, vado a prendermi qualcosa, faccio tutto per un bacio, faccio quello che riesco anche io. Ma te lo giuro Giovanna che non sono cattivo, sono tutte bugie di chi muore d'invidia. Te lo giuro sono sano, sono un pezzo di pane, dammi un peso, sono teso, con le frottole ho chiuso e ti ho già detto che ti amo due volte. Mi piacciono le mamme che odiano i mariti, che fanno i riti voodoo per chiamare gli spiriti spariti, volati, saliti nel solaio. Non ritorneranno più. Ma te lo giuro Giovanna che non sono cattivo, sono tutte bugie di chi muore d'invidia. Te lo giuro sono sano, sono un pezzo di pane, dammi un beso, sono teso, con le frottole ho chiuso e ti ho già detto che ti amo due volte. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Quasi le 23.59, Maurizio, è ormai tempo di saluti, come dicevamo. Sì, esattamente, abbiamo finito questa performance straordinaria di Alessandro Ducoli, di Valerio Gaffurini, pardon, al piano, e di Matteo Cossu al basso, alla U. Bene, sono stato molto contento questa cavalcata, spero anche voi. Noi, sì, molto, è stato meraviglioso, meraviglioso, sì. Ne facciamo una settimana, dai. Ecco, sì. Ogni settimana. Ospiti fissi. Facciamo la trasmissione. Ducolando. Esatto. Ducolando. Bene ragazzi, con cosa concludiamo? Con un po' di rock and roll oppure con un altro pezzo? Con la follia. Con la follia. Con Io convivo bene con la mia pazzia, che è il brano, la prima canzone che ho scritto. quando l'avevo scritta l'ho portata alle sorelle per dirle ho scritto una canzone, e i commenti furono assolutamente poco incoraggianti, però io non ho mai mollato e da quel giorno forse fu il fai schifo degli esordi che mi esorta a proseguire. Benissimo. Io convivo bene con la mia pazzia. Ok, grazie allora ad Alessandro Ducoli, grazie alla band. Grazie. Domani sera ci sarà Agostino, ci sarà Bassa Voce, ci sarà anche Vannuccio Zanella e Nino Destra, e come ospiti sarò anch'io. Tu, per no, te, io no. Fra 15 giorni. Eccoti. Grazie a Sergio Bortolami in regia. Ciao. Alla prossima. Buonanotte. Ciao a tutti. Io convivo bene con la mia pazzia. Io convivo bene con la mia fantasia e poi l'amore. E tutte le cose che mi costano poco, vorrei ancora un bacio, per favore. Vorrei sapere cosa pensi di fare. Sì, l'amore è così. Yes! Riparte. Ritorna, riparte, poi ritorna ancora. E sì che cambia il tempo in questa valle strana. La notte a me mi tiene compagnia e il banco è un'isola felice. Perduto, disperso, lasciato lì da solo in mezzo al bar a naufragare. Dolce in questo bar. La passione ci conduce fino in fondo, rinchiusi nelle braccia dell'amore, di quell'amore bugiardo. Bruciato, riacceso, perduto, ripreso, rinchiuso dentro al gioco che ti piace di più.